mare a mezzanotte e mezzo. Guarda, il padre sono salato tutto, ma ci hanno buttato tutti fuori, quindi figurati. Allora possiamo accettare, sicuro. Alle 10 si chiude la serranda, che più fuori che dentro lì. Se vuole, si può andare bene, se apriranno, viene male bene, se la mette a volte lo gioco e la mondessa. Se Antonè, se uno c'è la cliente la scelta, non succede quello. E vabbè, quello, ma comunque. Di solito si dice chi fuori che dentro a me, alle 9. Sai che c'è un come si chiama, quante sono? 15-20 persone, qui gli chiudi tutto. Io fino alle 10 a galera se ne va, capito? Come facevano tutti una volta. Perché quando arriva la merda, quelli che sono mezzo cotti, hai capito? Quindi vengono solo a rompere le balle. Già lo so, già. Troppa gente di merda, sono le pecore nere quelle, 3 e 2. E la persona di Corso Vittorio Emanuele sono uno schifo, sono. Ma è quel circolo che c'aveva la cosa, Angelo, prima, in Corso Vittorio Emanuele. Sì, vabbè, no, non ti faccio il nome perché è un amico. Ma va già la compresa che ti finì in nida, se ti cazzate. Beh, quello che deve alle 8, 9, no, 8 e mezza alle 9 mi sembra prima, quando c'era Angelo, poi l'ha rovinato in gestione, mi sembra, o la cosa, e lui gioca cazzo in quel punto lì, succede il casino, anche nel Raimondo qualche volte, quando abitavo io succedeva il casino, però lui una volta solo era successo, ha preso alle 9, 8 e mezza alle 9, chi era dentro, chi era fuori, non gli fregava niente. Non entrava gente di alle 10, no, vabbè, non gli fregava un cazzo di guadagnare 10 bottiglie di birra o cosa del genere, o anche 20. Hai capito? Faceva le feste all'interno e nessuno entrava. Chi era dentro, chi era fuori, basta, faceva così e si è andato bene. Poi quando sono arrivati i rumeni, hanno cominciato a pensarsi di vicino, col tavolino fuori, i rumeni, bevendosi la birra, sembravano che qualcosa, sembravano. Se prendevano la birra al supermercato, bevevano tra loro. Dove vedere la scena, io l'ho visto un giorno, gli ho detto, cazzo, quando fai con il mondo, gli ho detto, già la piglia buona, ha detto. Antonè, niente in mezzo a Gioia, tu, lasciamo perdere, per carità. Sono gente di merda. Ascolti, devo lasciare un attimo che ci sto entrando la roba dentro che è uscito il bagno. Ci sentiamo tra un po' se coincide, ok? Sì, d'accordo, ok, a dopo, ciao. Ho capito. Santiago 1, sì, Radio Quasi 1.